sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Sto facendo mente locale cercando di ricordarmi l'ultima volta qualcuno mi rubò qualcosa. Difficilmente riesco ad addurre questa occasione al furto di beni materiali. Ma guardate, è drammatico, sto pensandoci adesso. Evidentemente non ho nulla che valga la pena di essere rubato. Non ricordo l'ultimo furto, boh, non so, forse un autoradio, ai tempi coatti in cui l'autoradio era estraibile, ma quindi stiamo parlando almeno di 20 anni fa. Non ricordo perché non ho mai avuto furti in casa, probabilmente casa mia non c'è nulla da rubare, nulla è particolarmente degno di rischiare il furto, o ci ho avuto semplicemente fortuna. Una volta mi ricordo che nell'autobus mi accorsi di un signore che stava borseggiando un altro signore, lo avvertii, mi guardò anche molto male. Quando il borseggiatore scesi, in realtà mi accorsi che ero stato io borseggiato, mi ha infilato una mano in tasca e sfilato un artistico porta banconote in argento, mi aveva regalato una fidanzata con poche lire, ce l'hanno state 20-30 mila lire ai tempi. Ma perché non mi ricordo di qualcosa che mi hanno rubato? Invece no, mi ricordo di grandissimi furti dell'ingegno, di furti dell'intelletto, di pensieri che mi sono stati piratati, di idee che mi sono state scippate, ma soprattutto di momenti favolosi che avevo intenzione di condividere ma che in realtà mi sono stati portati via e non mi appartengono più. Ma penso che probabilmente, concretamente, chi mi ascolta questa mattina avrà dolorosi lacune nei propri averi. Quando è stata l'ultima volta vi hanno rubato qualcosa? Perché vi manca così disperatamente quello che vi hanno rubato? Oppure vi hanno rubato delle cose di cui non fate conto, di cui non pensate? Ieri ho avuto una discussione con il mio dentista mentre mi trapanava la mascella sul furto delle carte di credito, mentre mi infilava il trapano perforante nella mia bocca, facendo scempi indicibili, mi raccontava dell'ultimo furto che era stato fatto a una sua carta di credito, che si era accorto che gli scippavano una cifra tipo 6 euro al mese, ma questo l'hanno fatto per anni, non se ne è mai accorto. Evidentemente esiste questa forma di furto per stillicidio. Sono i furti meno dolorosi, quelli che non fanno male, quelli che ci si accorge soltanto quando si comincia a guardare con attenzione l'estratto conto. Ma voi avrete qualcosa di concreto che vi hanno rubato? Vi avranno rubato un'automobile, vi avranno rubato i mobili di casa, vi avranno rubato qualche oggetto a cui tenevate molto? Avete visto il ladro fuggire con la mascherina e con la tuta nera? Oppure avete trovato una porta di casa aperta, spalancata, e dentro non c'era più nulla? Oppure vi hanno rubato la moglie, il marito, vi hanno rubato la dignità? Cosa vi hanno rubato? Ari, c'è il posto. È il posto? Attacchino. T'hai da presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porti il libretto. Mannaggia la miseria, oh. Ari, ricordati di portare la bicicletta. La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no. La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viro. E non è uguale. Questi primi giorni faccio il servizio a pieno. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Pure io. Ma tu sei muratore, sei dell'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non se può. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri 2 anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. C'è, Cataldi? Eccomi! Ma la vale per 2 giornate al cantiere del tufello, si te va. Guarda, me la capo, non me la ce l'avo su. Quanto poteva essere fondamentale per l'esistenza di un essere umano una bicicletta nel 1948? Ladri di biciclette, il film di De Sica, segna un punto di discrimine fondamentale, una data nell'evoluzione degli italiani. Finita la guerra, l'Italia lentamente sta ricrescendo, rinascendo, ricolmando le lacune, le ferite della guerra. Il protagonista di Ladri di biciclette finalmente trova un lavoro, è disperato, il lavoro gli permette di mantenere la famiglia, di sfamare un orrendo ragazzino che da piccolo sembra già un vecchio di 70 anni, una moglie piena di pretese, poverina, pretese soprattutto di mangiare e mettere insieme il pranzo con la cena. Beh, gli rubano un quattello di quartiere e gli ruba la bicicletta. bicicletta. Senza bicicletta è un uomo morto. Non ha più possibilità di andare a lavorare. La mattina, in una Roma post bellica, con le biciclette si va a lavorare. Senza bicicletta non si può lavorare, quindi cosa fa? Lui ruba la bicicletta a un altro, almeno ci prova, non è un ladro professionista, porta via una bicicletta, fa pochi metri, la folla inferocita lo prende e anche la vergogna di essere svillaneggiato, il proprietario della bicicletta lo perdona, lo grazia, vede che è un morto di fame, non ha nemmeno il coraggio di fare denuncia alla guardia, però se ne va pieno di vergogna con il suo bambino. La felicità, la sopravvivenza in quegli anni era determinata dal possesso meno una bicicletta. 800 24 00 24, qual è la vostra bicicletta che vi hanno rubato, senza la quale non riuscite più a vivere? Esiste ancora il corrispondente, la bicicletta del protagonista del film di De Sica, che tolta quella non riesce più a vivere? Qual è la vostra bicicletta, il vostro SUV, la vostra automobile, il vostro ciclomotore, il vostro scooter, o il vostro orologio di prezzo, o il vostro orologio a cui siete legati da un valore affettivo? Spesso mi sono state fatte telefonate in altre trasmissioni su ricordi di persone che rimpiangono che sia stato rubato l'orologio appartenuto al padre o alla madre, qualcosa che era fortemente legato al loro ricordo. Non ha un valore commerciale, ma un valore immenso per la persona a cui è stato rubato. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa ti hanno rubato? A me, grazie all'intelligenza di mio fratello, hanno rubato una motosega nuova di Zecca. Guarda, io non ne so nulla, non dipende da me. No, no, no, ma l'intelligenza di mio fratello, perché io abitavo su un condominio. Praticamente c'era un abitante che era, si sapeva che era un ladruncolo, no? Sì, ma la motosega in casa del condominio cosa ci facevi? No, l'avevo nel garage. Ma abiti in città, in una città? In città o in campagna abiti? Beh, io abito un po' in campagna, abito in provincia di Vicenza, no? Praticamente mio fratello aveva il motorino, no? E va in garage e praticamente mette e giù il motorino in garage. Nel frattempo avevamo dei problemi con il garage che non si chiudeva bene. E c'era sta persona che sapevamo tutti che era un ladruncolo. E gli fa, non ti preoccupare, gli fa, vai pure in casa che ci penso io a chiudere il garage e ti sistemo io la serratura, di fa, no? Cioè, è come dare a Dracula la chiave dei flaconi del sangue per le trasfusioni. Lui ha dato al ladro la possibilità di cambiare la serratura del suo garage. L'uomo di Zecca, fatalità, lui mi aveva chiesto poco tempo prima. E io tranquillo vado in garage, la serratura non l'ha sistemata, però la motosega è sparita. E lei è andata a richiedere, ridammi la mia motosega? Sì, e lui mi ha detto, perché lui era una persona sfacciata, e mi fa, ma tu mi hai visto? No che non ti ho visto, ma so che sei stato tu, che vuoi che sia stato, ma tu non mi hai visto, non puoi dire niente, non puoi neanche, vai a denunciare se hai coraggio, mi fa. Ma lei non può, diciamo, appostarsi e vedere quando lui comincia a segare la legna che usa la sua motosega? Il problema è che lui probabilmente chissà che fine ha fatto con la motosega lì, però... No, ma se questo poi è anche una persona, diciamo, con tendenza a delinquere, il fatto che abbia una motosega è preoccupante. Sai, questa persona addirittura abitava in condominio, lei non ci crederà, l'ho vista salire al terzo piano di un condominio per le scale senza ascensore, una moto da cross in mano. Ah, che si era fregato anche quella. Avevo rubato una moto a cross e mi ha detto, ma dove vai quella moto? Devo sistemarla, sistemi dentro l'appartamento. Da quanto le manca la sua motosega? È rimasta parecchio perché ho dovuto comprarne un'altra e ho dovuto prenderla usata perché quell'altra costava troppo, era nuova. Non era mai come quella? Non era mai come quella, da allora non ho più speso soldi, l'ho presa un'usata che tra l'altro si inceppa anche. Guardi, siccome io capisco il suo problema e ho molto a cuore il suo dolore, le posso dare una piccolissima consolazione. So che è poca cosa nei confronti del furto che le hanno fatto, ma se in qualche maniera può lenire il suo dolore, può consolarla, può darle un po' di sollievo, le faccio ascoltare ancora una volta il canto della sua motosega. Silvia, buongiorno. Pronto? Buongiorno, cosa le hanno rubato? Allora, intanto è una storia letto fine, nel senso che dopo che mi ha rubato 10 bici da casa, io cerco di andare in città in bici per non usare la macchina. L'ultima volta che me l'hanno rubata e mi sono intestardita e sono andata in cerca della mia bici, perché io abito a Padova, c'è un posto dove le rivendono, e c'è un posto dove le rivendono, e praticamente mi sono fatta accompagnare da un mio amico carabinieri, perché i poliziotti di Padova naturalmente non avevano coraggio di accompagnarmi, e ho trovato il moldavo che era sopra la mia bici e l'ho fatto scendere e l'ho recuperata. Ma voglio dire, se ci fosse fossero più poliziotti in giro, la bici la potrebbero recuperare. Era ancora caldo il sellino del sedere del moldavo che gli aveva rubata, quindi lei se l'è portata via felice, come... No, l'ha fatta disinfettare dopo. Ah, l'ha fatta, beh, giustamente. Dopo un'altra volta mi è successo in autostrada, che mi hanno rubato tutto dalla macchina e me ne sono accorta a Padova, ero vicino a Novara, e quando ho chiamato i carabinieri non ho mai ritrovato le cose, perché praticamente ti aprono la macchina col telecomando, lo leggono. Lei è anche fortunata, molte volte ci tirano un mattone. Lo so, è stata fortunata, mi ha rubato tutto, avevo tutta roba di lavoro, sono giornalista anch'io. E praticamente quando ho chiamato la polizia mi ha detto, ma lo fanno sempre. Cioè, siamo anche becchi e bastonati in Italia. Vabbè, comunque lei mi sembra che ha dato già una dimostrazione che comunque qualcosa ha riottenuto, diciamo, il suo essere orfana delle biciclette in qualche maniera è stato sanato. Vedo che su Facebook in questo momento stanno arrivando decine di segnalazioni. Francesco, gli hanno rubato il sonno per avergli rubato in casa narcotizzandomi. Già una volta noi chiamammo però un ufficiale carabinieri, ci disse questa cosa la narcotizzazione durante i furti in casa. È molto leggendario, perché è difficile dare un narcotico senza poi esserne vittima. Poi, diciamo, Sabrina, facendomi occupare per forza di cose che non mi interessano, nessuno me le restituirà. Beh, questa parla metaforicamente del suo tempo rubato, degli impegni. Dunque, invece a Daniele hanno rubato due volte l'auto, la prima 500 e un'altra volta un'altra automobile. E poi un altro gli hanno rubato il telefonino, un altro ancora gli hanno rubato cose che non si possono dire. Roberto, cosa gli hanno rubato? Pronto? Sì, ecco, descriva sì. Il suo furto. Sì? Io sono Marco, da Modena. Non so. Vabbè, allora parli lo stesso, anche se si chiama Marco. Niente, per Marco ci mancherebbe. A me sono venuti i ladri e mi hanno rubato la medaglietta del cavaliere di Vittorio Veneto di mio nonno. E lui stava dormendo, il nonno? No, il nonno purtroppo era già passato miglior vita. Ah, il nonno era morto. E lei la teneva in un altarino? Dove la teneva? No, ha mandato il diploma con le due medaglie, la croce di ferro, il valore militare. Sì, ma era esposto a casa in una sorta di tabernacolo. Sì, era esposto a casa in questo quadretto, era lì che lo tenevo come carissimo ricordo del mio nonno, e valore commerciale sarà state 3 lire, perché era un pezzettino d'oro. E questo le è dispiaciuto molto? Moltissimo. Anche perché era finito... Qua, tutto quell'altro che hanno preso, sa, gli anelli, le cose, si può fare anche senza, si ricomprano, ma... Quelli lì sono gli effetti che ti rapportano via, che quelli sono. Sì, chissà estremamente... che fine ha fatto, sarà stato scambiato per una botta di coca, qualcosa del genere, così in 3 minuti la medaglietta di suo nonno era già stata barattata 3 volte. Vabbè, suo nonno non se la prenderà, sarà contento lo stesso, stia tranquillo. Vabbè, è chiaro, io il pensiero ce lo sento. Poi dispiace. Cioè, mio nonno non è, però dispiace moltissimo. Un'altra volta, se lo posso dire, certo. sono andato a Milano a vedere la partita. C'erano quei telefoni, sa, quelli che si portavano in giro con che sembravano mattoni, no? Ho detto, lascio a casa il telefono, perché così se non mi rompono un vetro per fregarmi il telefono, mi ha fregato la macchina. Vabbè, è stato in parte compensato, diciamo. Abbastanza. Vabbè, vediamo se adesso Roberto l'abbiamo recuperato. Roberto. Sì, buongiorno, Tony Coletti. Cosa le hanno rubato? Guardi, a me, fra le tante cose, compresa una bicicletta, la cosa che più... Mi fa piacere vedere che in effetti dal 48 oggi la bicicletta, perlomeno statisticamente, finora è uno degli articoli più rubati, continuano a rubare biciclette in Italia, c'è una sorta di nostalgia per questo furto arcaico, mi fa piacere. Sì, mi fa piacere da un punto di vista di colore, mi dispiace per le povere biciclette ingiustamente rubate. Vabbè, comunque la cosa che più, diciamo così, mi ha dato fastidio, mi rubarono una... tra le tante musicassette che avevo in macchina... avevo anche quella della registrazione del mio matrimonio, e quindi un ladro che evidentemente poi l'avrà buttata, perché non credo che ci sia servita più di tanto, ma allora parlo di 40 anni fa più o meno, insomma, una data del genere. Quindi questo ladro ha preso l'album delle foto del matrimonio? Non delle foto, le musicassette dove ho registrato la cerimonia. Ah, perché allora non si faceva il filmino, si faceva solo l'audio. Allora non c'erano ancora, io sì, vado dietro di 40 anni, perciò... insomma, è stato un furto che ho sofferto molto perché in effetti era una cosa... avevo pensato allora di fare un'istruzione sul giornale, insomma, per cercare di recuperarla. Chissà che ne avrà fatto, non lo so, avrà simulato probabilmente cerimonie di matrimonio per andare a borseggiare nelle chiese le povere vecchiette, non lo so, probabilmente ci ha rinciso sopra le canzoni dei Dick Dick, insomma, dato l'epoca, e sentito la musica. Grazie Roberto. Dunque, a proposito di furti, c'è un altro tipo di furto che però questa volta, come ho fatto per il rumore della motosega, potrò forse io compensare. Noi giorni fa facemmo una trasmissione dedicata al talento, alle possibilità di avere talento, alle possibilità di simulare talento e via dicendo. Come spesso facciamo, come faremo anche in questa trasmissione, abbiamo preso, fra le tante testimonianze, voci prese da YouTube. Ora, YouTube io lo considero un grande deposito, una grande meravigliosa miniera di ispirazioni, di derive di pensiero, di accostamenti coloriti al mio e altrui pensiero. YouTube è un grande territorio di libera semina dove gratuitamente chiunque può mettere quello che vuole e dove gratuitamente chiunque può prendere quello che vuole. Trovare segnali di continuità in un luogo in cui ci sia frammento lo trovo abbastanza singolare. Però c'è un signore che si è abbastanza arrabbiato, ha scritto lettere, ha messo online un suo scritto con il link addirittura alla casella postale del nostro direttore, cioè scrivete per protestare. Quindi siccome mi dispiace, la gente soffre, la gente protesta, la gente si senta derubata di qualcosa che gli appartiene, io do soddisfazione questa mattina al signor Toso Filippo. Il signor Toso Filippo è un direttore di marketing di una società che aveva messo questi video in rete su, in cui spiegava come ottenere il successo, almeno come tale l'avevo letto in qualche lezione. Lui faceva queste lezioni. Sotto i video che noi avevamo presi non c'era scritto il suo nome, bisognava fare una ricerca, seguire dei link. Come sempre consideriamo materiale sparso, senza inizio, senza fine, tutto ciò che è rete. Però lui rivendica il fatto che noi abbiamo fatto una grave omissione, abbiamo distorto il suo pensiero. In realtà mancava a quello che noi abbiamo mandato un video fondamentale, che era un altro video, bisognava andarselo a cercare, che spiegava il senso di tutte le sue lezioni di comportamento e di successo. Dice: questi estratti sono stati utilizzati dal vostro giornalista a sostegno delle sue argomentazioni, che non serve talento, l'esperto non deve avere esperienza, in modo fuorviante e lesivo. Il signor Nicoletti ha fatti evitato accuratamente di fare riferimento alla parte introduttiva del mio intervento, dove viene esposto chiaramente il punto di vista del sottoscritto sull'argomento. Per dare soddisfazione al signor Toso Filippo di ciò che noi abbiamo a lui, secondo lui, rubato, e per serenamente farlo contento, restituiamo la parte introduttiva del suo intervento, che era fondamentale a capire l'esatta cifra del suo pensiero. Come diventare un esperto in 6 settimane? Prima di iniziare, alcune precisazioni. Essere un esperto ed essere ritenuto un esperto sono due cose molto diverse. In questo video spiego a persone con competenze ed esperienze molto specifiche in un settore a come scappare da quello che è il tipico problema del nemoprofeta in patria, ovvero a come vedere riconosciute le proprie competenze da tutto il mercato a cui ci si rivolge. Non è un percorso facile né veloce, c'è bisogno di impegno e costanza, però mettendoci la giusta volontà si ottengono risultati veramente fenomenali. Ecco fatto. Abbiamo restituito a Filippo Toso ciò che, di cui si sentiva da noi derubato, quindi spero che sia contento. Sentiamo Mohamed. Buongiorno. Buongiorno. Invece lei cosa hanno rubato? Io ho subito un furto dalla parte di mia zia, che ha rubato un album fotografico di quando ero bambino. E praticamente io non ho più ricordi di come ero fatto da 3, da 4, da 5 anni, eccetera. Non ha più nessuna foto di lei da piccolo? Infatti. Questa è veramente una crudeltà. Anche poi cosa ci fanno con l'album fotografico delle sue foto da bambino? Magari per vendetta per mia madre, che non andavano d'accordo all'epoca. Ah, quindi sono stati dei parenti crudeli secondo lei? Infatti. Ma pensi un po' che infami. Ma forse l'hanno soltanto nascosto, c'è questa speranza. Speriamo, ma lei non sta qua in Italia, sta laggiù. Un paio di volte sono andato a chiederla magari anche di dare un'occhiata. E secondo lei dove si troverà questo album? Lei se lo sarà immaginato in questi anni? In che luogo fisico sarà questo album, secondo lei? Un'ipotesi. Ma che ne so io. Ma provi a dire una città, un posto. Se sono suoi parenti, nella sua la sua città d'origine, forse? La mia città d'origine è Muhammadia. Forse saranno lì, in qualche casa di parente, di zio, non può essere lì. Ma io sono andato da tutti, ho chiesto, ho richiesto, non ho mai avuto la possibilità di dare un'occhiata. Non so se esistono ancora o sono finiti da qualche altro posto. Ma guardi, c'è una speranza ancora, che quando qualcuno di questi suoi parenti cattivi schiatterà e morirà, forse in punto di morte, sentirà preso da rimorso e dirà: l'album delle foto di Mohammed bambino è là nascosto sotto quel mobile, potete prenderlo. E quindi lei lo riavrà e avrà improvvisamente possibilità di rimpossessarsi della sua fanciullezza, che un cattivo zio, un cattivo nonno, un cattivo cugino, un cattivo cognato, un cattivo suocero le tiene nascosto, ma per pura crudeltà. Melog 2.0. L'hanno rubata e io da 2 anni che ce l'avevo, non so che fare, perciò mi sono rivolta a Facebook, perché il ladro deve sapere che per 1.000 euro non ne vale la pena, glieli do io 1.000 euro, io non so che fare. Questa era la mia moto, come si sono permessi a prendere la mia moto? Io non riuscivo mai senza, non so che fare. Sono disperata, se no non mi rivolgevo alla rete per questo, perché sempre insieme, sotto il caldo, il freddo, pioggia, vento, mattina, pomeriggio, sera, io non lo so che devo fare più, non lo so, perderò tutta la mia vita. Nella veloce e transeunte epica di YouTube è ormai diventato un culto questo appello dell'adolescente a cui hanno rubato il motorino. Ne ho parlato molte volte in altri contesti, l'ho citato, è stato citato da molti, una ragazza a cui hanno rubato il motorino, per lei il motorino era fondamentale, è qualcosa visceralmente legato alla sua possibilità di muoversi, alla sua appartenenza a un gruppo, al suo sentirsi probabilmente dotata di uno status condividibile con altri amici. Gliel'hanno crudelmente rubato, non avendo altri mezzi per comunicare al mondo la sua disperazione, mette un filmato su YouTube. Ma questo filmato è talmente forte, talmente pieno di pathos, talmente drammatico, che immediatamente crea una catena di imitazioni. Altre persone, per lo spirito tipico della rete, per cui nulla appartiene a nessuno e tutto ciò che viene messo in un luogo di condivisione è già per sé, per il fatto stesso che qualcuno lo mette lì, è passibile qualsiasi tipo di contaminazione, di rivisitazione, di manipolazione, proprio perché non ti appartiene più, fa parte di un patrimonio comune. Questo è lo spirito della rete. Se poi qualcuno la intende diversamente, è giusto che esprima il suo parere. Beh, ecco cosa hanno fatto di questo video di questa ragazza. Mi hanno rubato la batteria, mi hanno rubato la mappa, la telata, io che cosa ne ho? Questa è una targa XPS4589 asterisco MU. Mi hanno rubato la moto, stavo andando al mare e non era nemmeno colpa mia, era la mia moto, ma per 1.000 euro non ne vale la pena, mi do la mia casa, i miei vestiti, le mie mutande, il mio cane, guardate che bello, pensare che io mi devo andare a divertire con le mie amiche e lui era un bunker, no, mi do la mia moto. Questo è un crudele ragazzino che la imita, facendo del suo strazio, il suo dolore, oggetto di dileggio. Ma andando avanti ancora, c'è anche chi imita il malfattore che ha rubato il motorino. Siamo malfattori. La riconosci questa? Sì, ce l'abbiamo noi. Ma non ti preoccupare, lei sta bene. Se fai quello che ti diamo noi andrà tutto bene. Tranquilla, potremmo farcela presto. Potrete stare ancora di nuovo sempre insieme. Col caldo, il freddo, il vento, la pioggia, la mattina, il pomeriggio, la sera. Stai tranquilla, sta bene, non devi fare più niente. Esci tranquillamente, divertiti. Lei è ancora tutta sana, guarda, è nel nostro bunker. Non ti preoccupare, sta bene. Olio e benzina non le mancano. Fai quello che diciamo noi, Ger, e non ti preoccupare. Niente più appelli su Facebook, da nessuna parte. Sappiamo dove abiti, presto riceverai i nostri indizi. Non ti preoccupare, ci faremo sentire noi. E mi raccomando, basta con gli appelli. Aspettaci. Ecco, questo è il potere mitopoietico della rete. Uno mette un'informazione in rete, la rete immediatamente crea degli episodi. Io giorni fa stavo a Milano, sono passato per via Garibaldi davanti a un luogo dove giorni prima avevo visto degli Umarels ballare, la porta era chiusa, raccontai una fantastica storia per cui ero stato graziato da una sorta di affresco di graffito urbano sul muro che raffigurava Arnold, il personaggio del film di quando eravamo ragazzini, e immediatamente in rete è cresciuto e nato il culto di Arnold. Quindi la rete è il luogo dove si crea in realtà, con un brandello di realtà si crea un'irrealtà che però è fortemente pregnante, impressionante quanto possa essere una cosa vera. Quindi se vi hanno anche rubato qualcosa dentro la rete, raccontatelo, ditelo. Siamo qui, 800240024. Anna. Ciao Gianluca. Eccomi, cosa ti hanno rubato? In prima liceo, arrivata da poco, avevo la mia smemoranda, era una cosa a cui tenevo. Ah, la smemoranda, no? Era l'agenda fighetta, dai, diciamo la verità. Sì, beh, altre... fighetta, però era piena di schifezze. Io avevo il diario Vitt, ho sempre avuto il diario Vitt anche al liceo. Ah, ecco, ma io non so neanche cosa sia, forse non siamo... No, era Coevo, ma ti faceva schifo, era il diario di Iacovitti. Iacovitti, ho capito, diario Vitt. Si chiamava diario Vitt, perché il diario di Iacovitti si chiamava diario Vitt, l'ho avuto fino al ginnasio addirittura. Ecco, e niente, io avevo tutte le mie robe, mozziconi di sigaretta, raccolti idee, tutte quelle cose cui tieni, e ero una ragazza abbastanza carina, e i più grandi di quarta, per farmi uno scherzo, me lo rubarono. Io ci rimasi veramente male, prima facendo mente locale delle cose che mi avevano rubato nella vita, come te non trovavo niente o che mi avesse veramente di cui mi fosse veramente importato, dal motorino a, non lo so, anche il furto in casa, le quattro cose, ma quello poi quando mi è venuto in mente mi è venuto un pugno allo stomaco, perché era troppo, poi la ritrovai piena di, non ti dico, vabbè, di cosa? Disegni, no, disegni di piselli, di cose. Ah, l'avevano impisellata. Sì. Sì, ma quello è uno sport che si usava a fare, diciamo la verità. La deturpazione falloide delle agende delle ragazze è una cosa molto triste, molto arcaica, una sorta di virile pretesa di segnatura dello spazio intimo di una ragazza. Io mi sentii veramente umiliata da quella cosa. Ma non potevi trasformarli? C'era un'arte di trasformazione, intanto fiorellini, vasi di fiori, campanili. No, guarda, avrei avuto bisogno di una decina d'anni per trasformare. Coniglietti con le orecchie. No, era impossibile. No, ci facevi i baffi, le orecchie, gli occhioni e entrava un coniglietto. Dai. No, non erano. Erano intrasformabili, erano troppo irrealistici. Sì. Però scusa, il reperto ha un valore in quanto contaminato da un passaggio barbarico, io l'avrei tenuta lo stesso. Penso oggi avere... Certo che ce l'ho, ma io ce l'ho. Ah, ce l'ha, perfetto. Ogni tanto la guardi? No, l'altro giorno però mio figlio di 4 anni, frugando tra certe cose, l'ha presa in mano. Oddio. Sì, no, infatti, l'ho messa su una mensola più alta, ma non è... Ogni tanto la guardi con un occhio di rimpianto? Ma no. No, però le volte che mi è capitato tra le mani mi è tornato con la sensazione di fastidio. Prenderla per le mani è brutto, sì. Quando poi soprattutto così rovinata. Soprattutto così conciata. Va bene, Anna, comunque parlarne oggi ha aiutato a elaborare non tanto il furto quanto l'oltraggio, la profanazione della tua smemoranda. Davide. Sì, buongiorno Gianluca. Io ho avuto la sfortuna incredibile di un furto nella mia cenciosissima Punto, sporca, puzzolente. Dentro avevo una borsa altrettanto sporca, altrettanto puzzolente, che probabilmente ha ingolosito qualche ladro. Ma quella della palestra cos'era? No, era una borsa nera di 20 anni, tutta strappata, ma probabilmente il ladro ha pensato ci sarà un bel computer qui dentro. E cosa c'era dentro invece? C'erano anni e anni di trascrizioni, almeno 10-15 anni di trascrizioni fatte a mano, di spartiti e di canti, di canzoni. Beh, però materiale prezioso per te, penso. Preziosissimo, preziosissimo. Ma e qui, io poi il giorno dopo sono stato a fare la denuncia ai carabinieri, perché era materiale che mi serviva anche per lavorare, tra l'altro ho girato per 2 giorni per Milano alla ricerca, ma niente, non ho trovato nulla. Sai, di solito quando vedono che sono cose che non interessano le buttano in un cassonetto. Ho cercato nei cassonetti, nei cestini, ovunque, però la mia fortuna è stata che, nonostante la mia reticenza, avevo fatto fotocopiare tutto a una mia amica 2 mesi prima, quindi fortunatamente, nonostante il furto, ho perso poco. Va bene, bene così, questa qualcosa almeno finisce bene. Andrea. Sì, Gianluca, buongiorno. Che ti hanno rubato? Io appartengo a quella categoria di persone che raccolgono le denunce dei cittadini che vengono in caserma a fare la denuncia perché gli hanno giustamente sottratto qualche cosa, no? Per più di 25 anni ho fatto questo lavoro. Allora vediamo quante ne hai viste di cose. Purtroppo, tantissime. Ti dico, io adesso sono passato al nostro ruolo civile, così si chiama, perché è una malattia delle ossa gravemente invalidante, allora mi ha messo in ufficio, però per più di 25 anni ho fatto queste cose. Ti dico, furti che ho visto, per esempio, in macchine parcheggiate, dal sedile posteriore, per esempio, un TV 45 pollici mentre il signore andava a fare la spesa, un computer da casa, il pinguino De Longhi, a me personalmente una borsina con i pannolini usati di mio figlio dalla macchina mi hanno rubato, pieni. Io sono stato vittima di questo. Pieni della benedetta pupù del bambino. Sì, sì, sì, anche questo sono stati capaci di rubare. E poi ti dico, per esempio, la cornetta di un vecchio cellulare, c'è presente quelli a mattone che c'erano una volta, certo. No, l'hanno preso pensando che fosse un telefono di un signore. Ah, e poi altri particolari, i due sedili anteriori della macchina mentre la signora stava facendo la spesa, il manubrio, il parabrezza anteriore, i fari. Sì, pezzi di quella è cannibalizzazione. Quello è come l'antenna dell'autoradio. Sì. Quella lì puntualmente. Se uno la frega per la prima volta, e poi chi gliela frega non la rifrega un altro, e quindi esatto, è una catena inestinguibile. E poi quella più bella era di un signore che gli hanno rubato la bicicletta, è uscito fuori e ha trovato un'altra bicicletta praticamente al posto della sua. Che poi ci ha chiamato a noi dicendo: ha rubato la bicicletta, arriviamo e vediamo. E la bicicletta anche lasciata, era rubata anche quella. Quindi sono arrivati con la bicicletta rubata, hanno lasciato quella e gli hanno rubato quella a lui, è bellissima anche questa come cosa. Anche la faccia tosta. Sì, sì, sì, sì, e poi in altri posti in giro per l'Italia, ti dico per esempio, un chilometro di piantine di aiuole, che poi abbiamo scoperto che avevano fatto una specie di attrezzo con un cilindro di ferro che le schiodavano proprio così completamente. Uno schiodo aiuole. Sì, in 3 minuti erano capaci di ripulire un chilometro di aiuole. Questi. Beh, guarda, io e poi do la linea di tutte, do la linea al traffico. Devo dirti solo una cosa, il furto più mi commosse. Un periodo che andavo all'università di Pisa a fare delle lezioni, c'è una bella trattoria fuori dell'università, con un fissato con la cucina pisana. Un giorno era tristissimo, gli hanno rubato un ulivo, gli hanno sradicato un ulivo tutto intorno e gli hanno portato via. Dice che lo usano per farci giardinetti o li vendono ai giapponesi, che sono quelle leggende metropolitane come le palle di stagnola per riscattare i bambini negretti della mia generazione. Melog 2.0. Ma come? Ma che cazzo? Mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me. Io giuro al Signore che spererei che tra le voci fosse il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen. Cosicché possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Cornuto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenertelo, puoi farci ciò che vuoi, ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni, forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio sotto la sella, nel fanale posteriore in quella anteriore, cosicché si spengono una notte tutta buia, mentre incroci un grosso tir, guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tiene la sinistra. Era il mio motorino. Questo è uno dei tanti pensieri che verranno in mente a chi è stato defraudato di qualcosa, derubato di qualcosa, o chi pensa di essere stato derubato, chi patologicamente è convinto e fissato che qualcuno voglia rubargli qualcosa quando in realtà non ha nulla che gli si possa rubare. Ma sono infinite le fattispecie legate al furto, al senso di proprietà, a qualcosa che qualcuno pensa di avere o immagina che sia fondamentale o importante la sua esistenza, e qualcun altro che abbassando le proprie difese, le proprie reticenze nei confronti dei limiti che ognuno dovrebbe avere e del rispetto alla proprietà altrui, se lo prende perché è bello, mi piace, mi serve e quindi diventa mio e lo porto via. E il derubato, il defraudato, colui che è stato depauperato del suo potere, può soltanto o rimpiangere l'oggetto o caricare l'oggetto rubato di un'infinità di maledizioni. Mi hai fregato, mi hai rubato un possedimento, mi hai rubato un terreno, mi hai rubato la moglie, ti possa attaccare la sifilide, ti possa tu schiattarci, possa tu inciamparci, possa tu strangolarti con il filo dell'acceleratore del motorino che mi hai rubato. Giuseppe. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Mi è piaciuto che ti prendesse la sifilide. Io ho due storie, quale vogliamo raccontare? Quella dell'idea? La più breve. La più breve è quella dell'idea. Io ho più di 60 anni, ho fatto per 20 anni il tecnico nelle aziende automobilistiche, per 20 anni il tecnico in aziende di arredo. Quando sono andato in pensione, mi sono messo in testa di disegnare una sedia abbastanza, come si può dire, all'interno di un pacchetto, all'interno di una famiglia, e venivo dal mondo dell'arredo, l'ho portata a far vedere ad un mio ex collega. Costruttore di sedie? No, era un collega, però era un collega che aveva il piacere di farsi vedere bravo e bello. Quindi? Io gli ho fatto vedere l'idea, i disegni, tutto quanto. Dopo un 7-8 mesi l'ho vista in fiera. E quante gambe aveva questa sedia? La sedia, sempre 4 in genere. Allora no? Dov'è l'idea? No, l'idea era nella industrializzazione di come era fatta, cioè è una sedia, tutte le sedie sono uguali perché hanno tutte 4 gambe. Ah, come era costruita? Era costruita in una maniera completamente diversa rispetto alle sedie. Ma lei non poteva prevedere se la dava un addetto ai lavori, questo avrebbe pensato? Ma no, io l'ho fatta vedere per il piacere personale di poter dire, guarda, sono riuscito adesso che sono è in sempre, pensione. Sai, è un terreno sempre molto limaccioso questo, lui potrebbe dire, la tua è una summa di idee, definire l'originalità di un pensiero, di un'idea, la propria matrice, l'appartenenza, il possesso di un'idea, è sempre una cosa molto difficile. Di solito l'idea è sua quando lei crea il prototipo, quando lei una cosa la fa lei per la prima volta, può in qualche maniera essere considerata sua, ammesso che non ci siano pezzi di idee di altre persone. Licia? Sì, cosa pronto? L'hanno rubato? Eccomi. Allora, niente, guardi, siamo rimasti malissimo perché noi andiamo a Somma Campagna a acquistare il vino 2 volte l'anno. Davvero? Sì, insomma, ci piace bere un po' bene e risparmiare anche. Mm. Allora, le due cose di solito sono in grande contrasto, chi risparmia beve male. Comunque. Mio genero anticipa anche i soldi per acquistarlo anche per lui. Torniamo a Caslino d'Erba, scarichiamo i nostri cartoni di vino, abbiamo un box, un garage in comune. Sì, andiamo alla sintesi, lasciamo perdere. Ognuno ha la sua cantina, allora cosa faccio? Scarico il vino, una parte la metto nella mia cantina, chiudo e il resto rimane fuori, dopo un quarto d'ora doveva arrivare mio genero a ritirare il vino. La sua parte. Basta, non c'era più vino. Siamo in 4 in quella palazzina, vino è sparito. Voi lasciate un cartone di vino appoggiati al muro. Mi sembra logico, c'è gente che si stende sui marciapiedi per un cartoncino da mezzo litro di pseudo vino, figuriamoci, vede dei cartoni e giustamente se li beve. Se lo saranno bevuti e staranno bene, in fondo, devono qualcosa. Fausto. Buongiorno. Io posseggo tuttora un piccolo furgone che utilizzavo come camper rudimentale, quindi con una branda all'interno. Quindi un luogo dove si viaggiava, una sorta di proiezione della casa. Sì, vabbè, questo è chiaro. Cosa le hanno rubato? Però, io a Barcellona è stato violato questa intimità di questo luogo ed è stato rubato ogni che è stato trovato a disposizione. Le hanno svuotato il camper? Beh, però succede abbastanza frequentemente questo. Sì, non un furto sistematico, per cui sono state rubate anche oggetti incongrui, tra cui un vecchio calzascarpe di metallo che ero affezionato, un paio di pantaloni alla turca che ho comprato a Istanbul, sì, pensi un po'. E tutto il sacco della biancheria intima di mia madre, che si è trovata senza mutande. Ma pensi un po'. Abbiamo poi vagolato per il quartiere trovando poi dei lacerti della nostra vita, dei pezzi che evidentemente non piacevano, abbandonati. Quindi, le mutande della mamma l'hanno seminate sulla strada? Come no, le mutande della mamma erano nuove. Ah, se le sono tenute? Vorrei vedere. Girotamente tenute, il problema è che poi era estate a Barcellona e il quadro merceologico offriva soltanto dei mini slip e mia madre gradiva delle mutande più cospicue. E faticammo qualche giorno con un unico Mi piace questa solidarietà fra mamma e figlio nella ricerca della giusta mutanda. Fa parte di una solidarietà che dura negli anni e quindi le fa onore. Grazie Luisa, chiudiamo con Luisa. Sì, io volevo portare una testimonianza. Tutti si lamentano, piangono di queste cose. Noi abbiamo subito, anzi mio marito, 2 volte il furto di opere. Lui è uno scultore. Le opere d'arte. Cosa? Le sue opere d'arte. Esattamente. Allora, oltre vabbè, chiaramente allo stupore, perché è successo, ripeto, 2 volte, però alla fine abbiamo detto, vuol dire che allora le cose piacciono, cioè, al di là... Ma le avevate fotografate, classificate, pubblicate queste opere? Sì, però quindi, quello che lo quindi dire... saranno in qualche museo clandestino? Sì, ecco, alla fine abbiamo avuto una grande soddisfazione, perché quando è ora di venderle nessuno tira fuori una lira. A rubarle invece nessuno, sì. Nessuno, insomma, voglio dire, la gente fa molta fatica, no? Ma erano belle sculture? Eh beh, sì, è chiaro. Che dimensioni avevano? Cosa? Quanto erano grandi, dimensioni? Ma faccia conto, quanto c'era stato? 70-80 centimetri. Beh, ci viene un bel fermaporta, un bel nanetto da giardino. Pensa le cose si possono fare. Quindi è chiaro che gliel'hanno rubato. Quindi significa che l'utilità c'era nell'opera d'arte di suo marito. La ringrazio, la saluto e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.